Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Nicole Minetti, la prima cosa che le chiedo è come sta. Bene, direi bene, tutto bene. Pantaloni rossi, maglietta bianca e profonda scollatura sul generoso décolleté. Seduta dietro la scrivania del suo ufficio al Consiglio regionale della Lombardia, Nicole Minetti sorride e cerca di mostrare sicurezza. Alle sue spalle la foto di Silvio Berlusconi, su una mensola, un giardinetto zen e una rivista con la sua immagine in copertina. Dopo l'inizio del processo al Premier, anche per lei, Emilio Fede e Lele Mora, comincerà il 27 giugno l'udienza preliminare nel caso Ruby, ovvero l'inchiesta sulle calde notti di Arcore, che vede tutti e tre accusati di favoreggiamento della prostituzione, anche minorile. Passate le prime settimane di accuse reciproche tra gli indagati, cambiati anche i difensori, ora la giovane consigliera misura le parole una ad una e risponde con tanti no comment alle domande sulle feste del Bunga Bunga. Ma in questa intervista a Storiacce parla anche della nuova giunta di Milano, della protesta delle donne, come della sua residenza all'Olgettina e di Silvio Berlusconi, ovviamente. Io sono tranquilla, sono serena, ho grande fiducia nella giustizia, per cui sono tranquilla. Non avete ancora valutato l'ipotesi di una sua partecipazione, presenza, non presenza in aula? No, ancora no. Quando è cominciato invece per la stessa vicenda il processo a Berlusconi, ci sono state tantissime telecamere venute da tutto il mondo. Lei sarebbe favorevole o contraria alla presenza di telecamere in aula? Comunque penso che a tutti noi stia cara la nostra privacy, la discrezione, per cui probabilmente forse preferirei che non ci fossero le telecamere. Però non lo so, le ripeto, è una cosa che valuterò insieme ai miei legali. Si è detto che molto abbia pesato in questo voto, che soprattutto su Milano è stata una batosta per il PDL, abbia pesato anche il voto femminile e una forma di reazione a tutto quanto era successo intorno alla vicenda Ruby. Si sente un po' in colpa per come sono andate le elezioni? Assolutamente no, penso che il risultato elettorale sia dovuto ad altre cause. Sicuramente non la vicenda Ruby. Non crede che le donne possano aver deciso di dare un segnale di questo tipo? Non solo le donne, ma anche un certo tipo di elettorato più moderato? Non credo. I problemi sono altri. Il popolo è sovrano, il voto è un voto democratico, il popolo ha deciso. Che ne pensa del fatto che Pisapia pare vada verso un vice sindaco donna? Sono assolutamente d'accordo, insomma, l'impegno delle donne in politica è importante, credo tanto nella presenza femminile in tutte le istituzioni, sono ben contenta se fosse così, assolutamente. Quindi le piace la giunta che Pisapia sta mettendo insieme, pare con una quota al femminile abbastanza forte? Certo che mi piace tantissimo, io ho partecipato alla premiazione di un progetto che comunque coinvolgeva le donne a Sedriano, e anche a Sedriano il sindaco Celeste ha scelto una giunta, insomma, dove c'è una forte componente femminile. A proposito di Sedriano, lei però non è stata accolta bene a Sedriano? Assolutamente no, sono stata accolta veramente bene invece. Al di là del sindaco e al di là delle istituzioni che l'avevano invitata, intorno c'è stato anche chi faceva capire che non era particolarmente contento della sua presenza. Lì c'erano dei cartelli che dicevano che non erano contenti della sua presenza come madrina di questo progetto. Per quel che riguarda quella serata, sinceramente c'erano una ventina di persone fuori che avevano tutto il diritto di essere lì e di dire la loro, ma la cosa non mi ha toccato minimamente. Per il resto comunque è normale che quando succedono queste vicende magari può capitare qualche episodio spiacevole, qualche mail di minaccia, qualche lettera poco simpatica, però voglio dire tutto abbastanza tranquillo, ecco. Sono state sicuramente più le lettere, le mail, i messaggi di solidarietà. C'è stata anche una giornata in cui c'è stata una mobilitazione femminile in tutta Italia molto forte, non solo a Milano, anche il suo nome ritornava nei cartelli ed era sicuramente una protesta nata sull'onda delle polemiche intorno al cosiddetto caso Ruby. A lei che effetto hanno fatto quelle proteste? E poi so che lei è impegnata anche in associazioni, in pro donne, in vario modo. Nascono anche per dare una risposta a quelle proteste delle donne? No, le mie iniziative nascono per una mia spinta interiore. Io sono impegnata su due fronti in particolare, uno è quello dell'infanzia e uno invece è quello che riguarda il papillomavirus, che come sappiamo è un virus che colpisce le donne. Non è assolutamente una forma di risposta a nessun tipo di protesta. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Se talune donne hanno sentito il bisogno di scendere in piazza a protestare, hanno fatto bene a farlo, prendo atto della protesta, punto e basta. Come ha vissuto quelle proteste? Non mi hanno fatto né caldo né freddo. Il suo nome sui manifesti non le ha toccate in alcun modo? No, perché dovrebbe? Assolutamente no. Cioè quella secondo lei resta una vicenda privata che non ha una dimensione pubblica, nonostante lei sia un consigliere regionale ed è coinvolto il presidente del consiglio? Certo, anche perché la vicenda ancora deve assolutamente essere chiarita nella maniera più assoluta. Ha visto che Ruby è incinta? Sì, ho visto. Penso semplicemente sia un evento bellissimo. Io oltretutto sono molto cattolica, per cui penso che sia un bellissimo avvenimento e sono contenta per lei. I cattolici gay scrivono una lettera al Papa chiedendo il suo appoggio in difesa dei diritti. Vorrebbe sottoscriverlo? No, in questo momento io preferisco non pronunciarmi sull'argomento. Non le stanno simpatici gay o? Assolutamente no, non ho detto questo. Preferisco non pronunciarmi per non dare adito a strumentalizzazioni. Per quanto riguarda ancora Ruby, mi sentite ancora? Assolutamente no. L'ho sentita qualche volta, non la sento più. Cosa pensa di tutti i racconti di Ruby, sia quelli fatti, diciamo, a verbale che quelli televisivi? Quelli televisivi, ad esempio, veri o falsi? Ma guardi, le dico verità, è un argomento su cui anche questo preferisco non pronunciarmi in quanto credo che il processo vada fatto in aula e non in altre sedi. Ci racconta però quella sera in cui le fu chiamata per andare a prendere in affidamento Ruby, come andò? Una sola curiosità su quella sera. Dopo che siete usciti dalla questura e dopo che Ruby era prima con lei, poi appunto con Michelle, lei informò anche il presidente quando tutto era finito? Ripeto, io su questa vicenda, nei dettagli eccetera, non parlo, sono tutte cose, tutti i dettagli che verranno chiariti in sede di processo eventualmente. Lei ha cambiato anche il suo avvocato e l'ha cambiato due giorni dopo una cena con il presidente, ne avete parlato? La cena non era soltanto con il presidente, la cena erano presenti tantissime persone che si è tenuta a Villa Cernetto, e il fatto che io abbia cambiato avvocato non ha assolutamente nessun tipo di collegamento con quella cena, è stata una casualità. Ho cambiato avvocato appunto perché ho deciso di affidarmi ad un legale che fosse anche più vicino alla mia famiglia, visto che questa vicenda ha avuto dei riscontri non soltanto su di me ma su tutte le persone che mi stanno intorno e che mi vogliono bene. Ho ritenuto fosse importante per loro avere un punto di riferimento a Rimini, che è la città dove abitano. Si era detto che questo cambio di avvocato fosse dovuto anche un po' a delle posizioni che il suo precedente avvocato, una donna, l'avvocato Pesce, aveva fatto pubblicamente. Assolutamente no, io sono grata all'avvocato Pesce per il lavoro che ha fatto, è una persona a cui tengo tantissimo, è stata veramente una scelta condivisa con la mia famiglia. Ovviamente ci siamo anche affidati al supporto di un altro legale, appunto il professor Corso, che ha sede a Milano, appunto perché il processo è un processo estremamente complicato e anche delicato, se vogliamo, per cui la presenza di due legali è sicuramente meglio della presenza di uno. C'è chi ha detto, nello specifico l'ha detto Lele Mora, ha detto ci stiamo un po' comportando come i capponi di Renzo, che si beccano tra di loro e però poi finiscono bolliti tutti e tre. Teme che possa succedere questo? No, io rivendico la mia innocenza, sono tranquilla. Lei è anche la più giovane ed è anche quella che forse potrebbe rischiare di restarne un po' più scottata, lo teme? Sì, è ovvio, sono delle preoccupazioni che ho in questo momento, oltretutto io sono una donna, per cui ho anche una sensibilità diversa sotto certi aspetti, sono giovane, però sono sicura che rispettando quello che è il mio ruolo istituzionale riuscirò a riscattarmi da questa immagine che sicuramente è stata lesa in qualche modo. Lei pensa che questa vicenda possa in qualche modo anche rallentare o ostacolare la sua carriera futura? Non permetterò che questo accada, che questa vicenda intralci in alcun modo quelle che sono le mie prospettive future, anche le mie ambizioni, i miei obiettivi. Obiettivi che casomai nel 2013 la potrebbero vedere trasferita a Roma? No, assolutamente no, non è una cosa che sto prendendo in considerazione. In questo momento momento mi sto impegnando in regione, il mio lavoro in regione mi piace tantissimo. Penserebbe di proseguire qui all'interno della regione anche la sua carriera? Assolutamente sì, perché no, mi piacerebbe tanto. Sono stati tutti, anche i miei colleghi durante questa vicenda hanno fatto quadro intorno a me, il presidente Formigoni mi ha difeso spesso e volentieri. C'è stato anche chi però ha fatto campagna elettorale contro di lei, tipo la Sara Giudici. Sara chi, scusi? Nessun caffè per tentare una riconciliazione. Non ho mai proposto un caffè a Sara Giudice. Ruby, ad Arcore, chi ce l'ha portata? Non lo so, anche questa è una cosa che verrà chiarita in sede di processo. L'Elemora dice due imprenditori. Lo chiede all'Elemora. Per quanto riguarda invece qui la regione, è stato il presidente direttamente a volerla nel listino, quello più blindato. Poi c'erano state anche tutte le polemiche, le firme e tutto il resto. Il listino bloccato viene scelto dai vertici del partito. Un aiutino il presidente gliel'ha data. Sicuramente il presidente ha proposto la mia candidatura, questo sicuramente. E lei ha già detto che lei non è mai stata l'igienista dentale del presidente. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti a San Raffaele, nel reparto di dermatologia. Quindi si può dire che lei in un certo senso fa anche da trait d'union tra Don Verzé e il Pirellone? Ultimamente no, io ho conosciuto Don Verzé, lo conosco, ho lavorato anche per il San Raffaele. Don Verzé era assolutamente d'accordo e ha sostenuto fortemente la mia candidatura, perché comunque gli faceva estremamente piacere che una giovane studentessa del San Raffaele potesse in qualche modo rappresentare, tra virgolette, il San Raffaele all'interno del Consiglio regionale. Abbiamo sentito la sua intervista alla CNN. All'estero c'è stata anche un po' una polemica sul fatto che, diciamo, in Italia la bellezza aiuti a fare politica. La bellezza non aiuta a fare politica. Che problema c'è ad ammetterlo? Non avrei nessun problema se fosse vero. La bellezza è un valore aggiunto. Non c'è un rapporto tra televisione e politica nel centrodestra soprattutto? Assolutamente no. Non vedo perché il fatto che nel centrodestra ci siano delle belle donne debba essere un demerito. Cosa pensa del fatto che il direttore Sallusti ha detto che lei non era un bel esempio? Prendo atto della sua opinione. Com'è Villa Gernetto? Più bella o più brutta di Villa San Martino? Diversa, è bellissima Villa Gernetto, sembra Versailles. Ci va spesso? Spesso no, mi è capitato di andarci in qualche occasione. Presidente, lo sente, i vostri rapporti come sono? Buoni, ottimi. Gli sono sempre vicina nella maniera più assoluta, come lui è vicino a me. Vi capita di parlare della vicenda? No, sinceramente no. Che cosa pensa delle parole che Daniela Santanchè ha detto sul PM, su Ilda Boccassini? È un'opinione di Daniela Santanchè. In questo momento penso che da parte mia sia necessario grande rispetto nei confronti del processo. Lei ricordava le sue origini di Rimini, le sue amiche di Rimini le ha più sentite? No, ma non le sentivo già da prima. Molto tempo fa si state insieme ad Arcore? Non la sento, no, non la sento, ma le ripeto che comunque i rapporti erano già andati scemando prima. Quella vicenda ha cambiato anche la sua quotidianità? La mia quotidianità è rimasta invariata, io continuo a fare le stesse cose di prima. Feste comprese? Vado a ballare, mi diverto, esco con le mie amiche esattamente come facevo prima. C'è qualche leggerezza che pensa di aver commesso? Essendo assolutamente convinta della mia innocenza, no. Neanche la macchina prestata alla Blanco? Una mia amica aveva bisogno della macchina e gliel'ho prestata. Considerando poi tutto il resto, la droga. Io non potevo sapere che cosa sarebbe successo. Lei ha già detto, erano feste normali. Non erano feste, erano cene. Solo cene? Assolutamente sì. Non si è mai ballato? Ma se qualcuno si alza e accenna un passo di danza alla musica, non vuol dire che sia una festa. Gli ospiti di queste cene, di queste feste, c'erano anche tante persone che abitavano in questo residence dell'Olgettina. Perché tutte quelle persone lì, che poi erano ospiti di quelle cene, abitavano lì? Premetto che non ho intenzione di rispondere alla seconda parte della domanda, perché anche questo è un dettaglio che riguarda il processo. Però ci tengo a sottolineare che non è un residence, ma è semplicemente un blocco di appartamenti. Lei c'è più tornata all'Olgettina? Certo, mi arriva la posta lì. Alla residenza lì? Sì, ho la residenza in via Olgettina 65. Potete riascoltare e scaricare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, dal sito radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul nostro audioblog. Ciao a tutti, a sabato.